1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7 e 18 minuti in punto in questo istante, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Allora, tra un'ora esatta avremo ospite il Premier Matteo Renzi qui ai microfoni di Radio 24 per un'intervista con lui, e questo è il menù, diciamo, succoso e ricco del giorno. E per quel che riguarda i nostri ospiti, parleremo anche poi dopo le 8.30 con Maurizio Bianconi, Daniele Martinelli, della vicenda dell'arresto di Francantonio Genovese, ma soprattutto ovviamente il Premier Renzi tra un'ora ai microfoni di Radio 24. State con noi ovviamente, ma adesso leggiamo i giornali che trovate in edicola. In questo venerdì 16 maggio, conclusione della 54esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province, eccoci con i titoli. I titoli principali sono dedicati al PIL che è negativo, così è il titolo del Sole 24 Ore. Il PIL torna negativo, scossa sui mercati. O Repubblica, PIL gelata sulla ripresa, borsa KO sullo spread, manovra bis più vicina. La Stampa, PIL negativo frena la ripresa. Per il Messaggero c'è un'intervista al ministro al lavoro Poletti, disoccupati il piano pensioni, intervista all'indomani dell'approvazione definitiva del piano lavoro. Corriere della Sera, il PD genovese già in carcere, questo è il titolo di prima pagina. Libero mette insieme la vicenda sia del PIL che di Genovese in mutande e in manette, e c'è un disegno di un Matteo Renzi davvero vestito trasandato e che tiene un paio di manette. Per il Fatto Quotidiano, Renzi arresta Genovese ma nel PD incubo Greganti. Il Giornale invece, la prova del complotto, insiste sulla vicenda delle dimissioni di Berlusconi del 2011. Il Secolo XIX ha un'intervista al candidato PPE per la presidenza della Commissione Europea, Juncker. Renzi, così non salvi l'Italia. Vendere auto blu non basta, serve più responsabilità fiscale. Per l'Unità genovese, il PD spiazza Grillo. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire però dalle novità in casa Rai, perché è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione di recepire la norma voluta dal governo, cioè il tetto di 240.000 euro per tutti i dirigenti pubblici, e anche alla Rai viene messo questo tetto di 240.000 euro ai compensi. Questo è il titolo di pagina 23 del Sole 24 Ore. Il CDA della RAI ha approvato una delibera sui compensi aziendali adeguandosi al tetto imposto dal governo. La misura per ora è definitiva per il presidente Anna Maria Tarantola, mentre i dirigenti e le altre figure professionali si sono impegnati ad autoridursi il proprio compenso sotto alle soglia in via cautelare. Dunque, una buona notizia parrebbe, ma attenzione, perché il diavolo è sempre nei dettagli in Italia. Il diavolo è sempre nei dettagli, come scrive il Secolo XIX a pagina 8, riferendo della stessa notizia. Questo è il titolo: profumo di tagli, i paperoni della RAI preparano i ricorsi. Ma come i ricorsi? Cioè, nel giorno in cui c'è scritto che la RAI mette il tetto, già qualcuno pensa ai ricorsi. Sì, perché c'è sempre un ricorso da fare, c'è sempre un diritto acquisito da garantire, c'è sempre una Corte Costituzionale che lo garantisce. Alessandro Di Matteo racconta, pagina 8, che la risposta a Matteo Renzi, che chiede anche alla RAI di fare la propria parte, secondo alcuni è una mossa che nasconde un'uscita di sicurezza. La decisione del CDA RAI di imporre a Viale Mazzini il tetto di 240.000 euro fissato dal Premier per i manager delle aziende pubbliche è sicuramente una replica all'affondo del governo, ma potrebbe non essere risolutiva. Dice un deputato PD della vigilanza RAI, tanto hanno già pronta la contromossa, un ricorso contro una norma pensata per le aziende pubbliche e applicata in una società per azioni come invece la RAI. Eccolo qui, il ricorsone forse pronto. Tra l'altro, a proposito di Rai, anche il Corriere titola: arriva al tetto agli stipendi, in 43 scendono a 240.000 euro, ma a questo punto staremo a vedere se c'è davvero questa discesa dello stipendio oppure se sono pronti i ricorsi. C'è intanto il caso, dicevamo, Luisa Todini, che è stata nominata nel presidente delle Poste, ma rimane anche nel CDA della RAI. Le due cariche non sono incompatibili. Infatti Luisa Todini, a pagina 15 del Corriere della Sera, intervistata da Giovanna Cavalli, si difende così: e allora riesco a fare bene tutto. Noi donne siamo geneticamente modificate, nasciamo multitasking. Così Luisa Todini, 47 anni, una figlia di 11, famiglia di costruttori umbri, imprenditrice, a 28 già eurodeputata forzista. Già che c'è, presiede pure il Comitato Leonardo e copresiede il foro di dialogo italo-russo. Non tutti apprezzano la sua versatilità, però, Todini. La criticano i grillini e pure il PD. Piano a dire PD. Ha parlato forse Renzi? O il sottosegretario Giacomelli? Beh, l'onorevole Anzaldi. Ecco, Anzaldi è il PD? Anzaldi parla per sé. Così risponde Luisa Todini: non mi aggrappo alle poltrone, non è mia educazione, sono a disposizione, se me lo chiedono mi faccio da parte. Guadagno al CDA della RAI 238.000 euro, cioè alle Poste 238.000 euro lordi, come per tutti i manager c'è il tetto, mentre sommo quello di consigliere RAI altri 66.000 euro lordi, che sono tanti per una famiglia, lo so benissimo. Beh, potrebbe rinunciare almeno a questi. Non sarebbe giusto. Il lavoro va sempre pagato, è una mia regola e io lavoro parecchio. Comunque, dice, aspetto ordini come un bravo soldato. E Luisa Todini rimane al CDA della RAI. E a proposito di RAI, oggi i giornali sono pieni di articoli dedicati alla RAI, in questo caso denunce di sprechi. Sia sul Giornale sia sul Fatto Quotidiano ci sono due pagine a riguardo. Il Fatto Quotidiano, con Carlo Tecce a pagina 5, fa un po' di conti a partire da questa cifra: 11 milioni di euro anche la RAI paga il canone, ma d'affitto. Decine di appartamenti affittati per le redazioni, da Ballarò a Porta a Porta. 400.000 euro soltanto per custodire le cassette VHS e i nastroni dell'archivio audio e video. Queste alcune delle cifre denunciate dal Fatto Quotidiano. Quando un conduttore otteneva la gognata matricola RAI, scrive Tecce, un numero identificativo per organizzare un programma col servizio pubblico, la prima consegna era le chiavi di un appartamento in affitto, un intero piano o un paio collegati o perfino un palazzo mezzo vuoto. E l'azienda così è arrivata a pagare canoni d'affitto da 11,2 milioni di euro l'anno, come nel 2013. Poi c'è questo: migliaia di euro buttati per il ritardo tecnologico, in via Salari appunto si custodiscono, spendendo 400.000 euro l'anno, le cassette, i nastroni, reperti archeologici, 60 anni di servizio pubblico, un bizzarro e dannoso esempio che soltanto in RAI esiste. Quando il passaggio al digitale sarà completato, quei 400.000 euro resteranno in banca. Oppure sul Giornale ci sono altre cifre. Stefano Sansonetti: per la RAI l'austerity non vale, 5 milioni per smistare la Posta. I grandi risparmi annunciati restano lettera morta, scrive il Giornale. Si è speso per esempio 5 milioni e 450 mila euro per pagare servizi di manovalanza, trasporto e trasloco tra le sedi degli uffici aziendali situati a Roma. Solo per le pulizie degli uffici in quattro città sono stati stanziati 35 milioni di euro in quattro anni. Insomma, racconta il Giornale, con Stefano Sansonetti, che gli sprechi in realtà ci sono, sia come sia, chissà com'è. A proposito di sprechi, ho trovato una notizia su Libero, dove me la sono persa, eccola qua, ritrovata, che mi ha fatto sobbalzare. Sono quelle assurdità che avvengono solo nei servizi pubblici e nelle aziende pubbliche, come in questo caso il paradosso accade al Comune di Palermo. Pagina 17 di Libero: in comune manca il dirigente e in 90 pagati per non lavorare. Alberto Samonà racconta cosa? la storia di questi operai addetti alla manutenzione di uffici e scuole che non hanno un funzionario che li autorizza a fare gli interventi e quindi non fanno nulla da mesi. Che bella vita, essere pagati per non lavorare, a chi non piacerebbe? Ma a volte un sogno può trasformarsi in realtà, ad esempio al comune di Palermo, dove a una novantina di operai manca il dirigente che autorizzi le visite mediche o i corsi di formazione necessari per lavorare. Così, da 4 mesi questi dipendenti vengono pagati per non fare nulla. Accade al cantiere municipale del municipio, dove elettricisti, carpentieri, operai per la manutenzione scolastica, addetti ai traslochi, idraulici, meccanici, altri lavoratori, da gennaio non svolgono alcun servizio pur percependo regolare stipendio. Il cantiere ha in forza circa 200 dipendenti, la metà dei quali svolge attività ritenute pericolose, e sono proprio questi a trovarsi nella condizione di non poter lavorare, perché il dirigente incaricato fino a gennaio c'era, ma a seguito di una rotazione è stato sostituito, il nuovo non ha ancora le autorizzazioni. E quindi, mentre al comune cercano di capire come risolvere la questione, uffici, scuole e altri servizi subiscono disagi non indifferenti per la mancanza della benché minima attività di manutenzione. Fra gli interventi più urgenti, le scuole, paralizzate nonostante le continue richieste da parte dei dirigenti dei plessi scolastici, ma la situazione non è migliore neanche negli uffici pubblici. Insomma, in 90 a non lavorare perché non c'è un dirigente, manca il dirigente che li autorizzi. Succede anche questo nel fantastico mondo del lavoro pubblico in Italia. E allora andiamo a sentire la pubblicità, poi rientriamo con il PIL che cala, le notizie politiche tra poco. Alessandro Milan, il Cilentano per l'informazione. Ma chi è sto grande imitatore? Il molleggiato, grazie, grazie, anzi come direbbe Cilentano, grazie! Grazie caro ascoltatore. Allora, come detto, il PIL è tornato negativo. Primo trimestre, meno 0,1% sull'anno, meno 0,5%, e siamo la pecora nera d'Europa, perché siamo il paese dell'Eurozona che ha fatto registrare i risultati peggiori, come spiega Rossella Boccerelli a pagina 3. Del Sole 24 Ore. Deludente rispetto alle attese, la performance dell'economia italiana torna a decrescere nel primo trimestre dell'anno. L'Istat ha comunicato che tra gennaio e marzo il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% nei confronti del primo scorcio del 2003. C'è da dire che a questa notizia il premier Matteo Renzi, che ricordo sarà ospite nostro alle 8:15, ha commentato questo secondo Repubblica. Leggo l'articolo a pagina 4, il titolo è: a Palazzo Chigi scatta l'allarme rosso ma niente manovra. Ha commentato: lo sapevo che il primo trimestre sarebbe stato difficile, infatti siamo stati seri e onesti abbassando le stime sul PIL dal più 1,1 al più 0,8%. Ma a Palazzo Chigi, scrive Goffredo De Marchis, lo shock dei dati sul PIL e sullo spread si avverte, e come. Adesso gli 80 euro in busta paga a partire dal 27 di questo mese diventano l'unico concreto argine davanti al fantasma di una manovra correttiva. Ecco, e di fronte alla possibile manovra correttiva, Renzi dice assolutamente no. Ripete ai suoi collaboratori. Eppure le stime dell'Istat sono un duro colpo per le ambizioni del governo. Libero assicura: dopo il 25 maggio, dopo le elezioni europee, dunque, arriveranno nuove tasse. Renzi dice: non ci sarà una manovra correttiva. Glielo chiederemo alle 8:15. Certo, Repubblica in prima pagina la mette così: manovra bis più vicina. Arriveranno nuove tasse per raddrizzare un po' i conti? Cari italiani, chi lo sa. Intanto, per quel che riguarda una tassa, la TASI, come scrive il Corriere della Sera Andrea Ducci a pagina 3, lo scrivono tutti i giornali ma è in risalto sul Corriere della Sera, la TASI, la prima rata, si pagherà il 16 giugno. Nessun slittamento dei termini, come ieri ha detto Fassino, presidente dei comuni dell'ANCI, ha messo in guardia contro lo slittamento della TASI. Dice: i servizi sono a rischio in caso di slittamento dei termini. Dunque si pagherà il 16 giugno la prima rata della TASI, non dovrebbe slittare a luglio come si vociferava. e come si ipotizzava da parte di qualcuno con voto del Parlamento. A proposito del Parlamento, ieri la notizia del giorno certamente è stato il via libera con voto palese all'arresto di Francantonio Genovese. Il deputato del PD è andato subito a Messina, mezz'ora per una doccia e raccattare un po' di roba, e poi si è consegnato in carcere. Il sì all'arresto di Genovese, sei democratici hanno votato contro, sono gli unici sei del partito, sono Maria Amato, Maria Gaetana Greco, Beppe Fioroni, Maria Tinda Ragullo, Gero Grassi e Tommaso Ginoble, fa sapere il Corriere della Sera con Dino Martirano nell'articolo di cronaca a pagina 10. E Genovese invece, con i 371 incassati di sì all'arresto, Renzi, che in tutte le i resoconti, retroscena, dice non potevamo darla vinta a Beppe Grillo, e il Movimento 5 Stelle, che aveva accusato, infatti ne abbiamo parlato anche ieri, dicendo volete farsi dettare tutta dopo le elezioni, invece Renzi ha detto no, si vota oggi, e così poi è stato, e Genovese si dice tradito dal partito. Questo è il racconto di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria in prima pagina di Repubblica, poi continua a pagina 7. Io, vittima dell'odio, ma non scappo. Saluta e sorride Francantonio Genovese anche nell'ultima tappa del lungo viaggio che dal Parlamento lo condanna al carcere messinese di Gazzi. Sono le 8:30 della sera, dietro il finestrino della BMW esce dalla villa di Ganzirri, vista sullo stretto, il potente non perde il suo aplomb. Io non scappo, aveva promesso qualche ora prima, col solito sguardo sempre uguale, appena più corrucciato, quasi commosso. Con mille nuvole però all'orizzonte, la verità, confida uno dei deputati più vicini, è che il partito mi ha abbandonato, mi ha tradito. Tony Cupi. Lasciare il PD, che devo dire, non lo so più, guardi, non mi interessa più, per ora c'è in ballo qualcosa di più importante. Ma continua a dire io non scappo, anche se aveva ironizzato poco prima della decisione dell'arresto dicendo sto andando in aeroporto a prendere un biglietto per il Libano. E poi a qualche collega che gli diceva, insomma, cercava di confortarlo, ha detto ma se no prendo una Caronte, cioè una nave, diciamo, di famiglia, una Caronte, ma se prendo una nave mi cercano con la marina e mi affondano. Vabbè, al di là della amara ironia, Francantonio Genovese dice, secondo Repubblica, i colleghi di partito, dato tanto a questo PD, mi ha tradito, ora posso lasciarlo. Tra l'altro nel PD c'è sempre l'imbarazzo per la vicenda Primo Greganti, anche perché adesso è uscito un nastro delle intercettazioni. Primo Greganti andava o no al Senato? Ieri il senatore Barani del movimento GAL ai nostri microfoni ha detto io giuro di averlo visto, chiacchierava con alcuni esponenti del PD rapportato da loro, ma non dirò mai quali, devono dirlo loro, e poi ha fatto anche delle battute con alcuni del Movimento 5 Stelle che erano lì alla buvette al bar. Enrico Lagattolla sul Giornale dice e scrive un nastro incastra Greganti, sono appena stato in Senato, c'è una sua dichiarazione, una sua intercettazione sul caso Expo. Secondo l'intercettazione andò a Palazzo Madama, Grasso ha chiesto tutti i documenti, il presidente del Senato, ai PM, e il Giornale scrive anche di un incontro con Riccio, ex tesoriere dei DS, e soprattutto questa intercettazione in cui Primo Greganti parla al telefono e dice sono appena uscito da una riunione in Senato, quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro che frequentasse Palazzo Madama. Ieri è stato anche il giorno del via libera al decreto lavoro, è effettivamente legge con il terzo e ultimo passaggio alla Camera, contratti a termine senza causale per 36 mesi, tetto del 20% di utilizzo del lavoro a tempo, piano formativo dell'apprendista in forma semplificata, quota di stabilizzazione del 20% di contratti di apprendistato solo nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Queste alcune delle modifiche apportate da questo piano lavoro, come scrivono Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci a pagina 10 del Sole 24 Ore, ci sono tutti i dettagli appunto di tutte le novità che arrivano con questo piano lavoro, e c'è sul Messaggero un'intervista al ministro del lavoro Giuliano Poletti. Pensione anticipata per i disoccupati over 60, questo è il titolo, e su quello che sono il decreto lavoro, quando vedremo i primi riscontri, dice il ministro, faremo un monitoraggio sistematico, è necessario qualche mese da domani in avanti. Ora le aziende non hanno più alibi, non c'è più alcuna ragione per cui un'impresa non possa procedere tranquillamente ad assumere le persone di cui ha bisogno. Così dice Poletti. Riguardo ai rapporti con la CGIL, lei è andato a Rimini ma non è riuscito a convincerli. La CGIL, risponde Poletti, la sua segreteria, credo siano in buona fede quando affermano che queste norme faranno aumentare la precarietà. Ma una cosa sono le opinioni, una cosa i fatti. Tra qualche mese vedremo chi ha ragione. Dunque, dice Poletti, non aumenta la precarietà. A proposito di precari, saluto Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci qua, Mauro. Sì, buongiorno Alessandro, grazie, un viatico fantastico. Ah, era un messaggio dal direttore del personale, non sapevi nulla? No, però lo apprendo con piacere, anche, come dire, lo apprenderanno con piacere gli ascoltatori. Siamo tutti precari un po' a questo mondo, però qualcuno di noi potrebbe essere apprendista, perché sì. Tu hai notato giustamente. Sì. La disamina che facciamo del decreto lavoro nelle primissime pagine, ma ti segnalo anche nelle pagine di norme e tributi una coppia di pagine di approfondimento proprio sull'apprendistato. Io vorrei passare da precario ad apprendista, così come penso parecchi degli ascoltatori, probabilmente i più giovani, insomma. Ecco, spieghiamo che cosa cambia per l'apprendistato, è il terzo intervento in 4 anni, speriamo che sia quello risolutivo, che diciamo così dice il ministro, decollare. Chi vivrà vedrà. Poi ieri, come sai, non c'ero, ero molto preso perché è arrivato Gerico. Ecco perché hai accolto Gerico. E ne avevamo parlato anche di questa cosa, certo. Di Gerico, scusa. Ti sei messo il frac. Risistemare sì. Un po' lo studio, abbiamo accolto Gerico così in modo poco elegante. No, infatti. Gerico, noi facciamo qua dell'ironia così la mattina, ma guarda che è attesissimo perché è il programma sostanzialmente che governa gli studi di settore, quindi parliamo di milioni di dichiarazioni. E oggi infatti proprio sul Sole 24 rappresentiamo anche delle simulazioni per vedere come funziona questa versione 2014 di Gerico. Oh. Non vorrei che tu l'avessi presa sotto gamba, l'hai un po' sottovalutato. Sì, un pochino sì, un pochino sì. Allora vabbè, intanto ti do una data da cominciare la sera sul calendario, 16 giugno. Ah, la Tasi. No, è la Tasi, la dichiarazione dei redditi a voglia. Cioè, manca un mese, ma ci sono molte cose che non sappiamo. Per adesso la Tasi dicono che non la prorogano. Vedremo. State connessi e vediamo un po' che cosa Insomma, così ha decidere. Detto Fassino, io l'ho letto e adesso Fassino mente. No, noi vogliamo dire che sappiamo molto poco di questa nuova imposta e quindi ci piacerebbe saperne di più per poterla pagare, perché naturalmente tu puoi pagarla. O ti hanno ridotto già lo stipendio a 240.000 euro. Guarda, siccome alle 8.15 avremo qui Matteo Renzi, ospite, e gli chiederò se si pagherà più o meno dell'IMU, per esempio. No? Ma, è una grande... prova a sentire che cosa dice il Presidente del Consiglio. Il tuo stipendio però non l'abbiamo ridotto ancora, perché noi scriviamo oggi sul Sole degli stipendi RAI. Hai detto giusto, ancora. Non ancora. Adesso interveniamo. Molto bene. Allora, senti, segnalandoti che ci sono dei problemi sulla produzione mondiale di greggio, sì. E ne scrive Sissi Bellomo nella pagina di materie prime, dovresti fare caso alle pagine di materie prime del Sole 24 Ore, però per adesso mi pare che non ci siano problemi di approvvigionamento sulla rete stradale e autostradale per i carburanti, e quindi tutto questo serviva per dire poi alla fine una sola parola. Esatto. Sì. È il mio momento. Quella. Con un caro saluto, un carissimo saluto al Presidente del Consiglio, mi raccomando, porgigli i miei omaggi. Allora, a tutti voi, traffico. Alessandro Milan e Lenzi Bogard per l'informazione. Ma sì, uguale, stesso fascino, stesso carisma, cara signora, le mando un grosso abbraccio. E a proposito di lavoro, vorrei fare un salto nella vicina, per chi sta nel nord Italia, Svizzera, dove domenica, come scrive Michele Brambilla, inviato a Lugano per La Stampa, In Svizzera si voterà per il salario minimo e lì si sa, si vota col referendum e quando ci sono i referendum vengono rispettati nel loro risultato. Michele Brambilla sembra di scrivere dal paese di Bengodi. Qui in Svizzera domenica si voterà un referendum per introdurre un salario minimo garantito di 4.000 franchi al mese, pari circa a 3.300 euro. Avete letto bene. 3.300 euro per tutte le categorie di lavoratori. Se poi aggiungiamo che questo è il paese con la più bassa disoccupazione d'Europa, 3,2%, noi italiani possiamo crepare d'invidia. Certo, anche i numeri vanno interpretati, dunque per correttezza 3.300 euro sono lordi e non netti. Da quella cifra va tolto un 15% di tasse contributi vari, poi bisogna togliere la cassa malattia che non è trattenuta in busta paga e ciascuno si deve fare per conto proprio. Altra precisazione, in Svizzera la vita costa ben di più che in Italia, in quella francese e tedesca il 30-40% in più, nel Canton Ticino il 20%. Però... Nonostante queste precisazioni, vista dall'Italia è tutta manna che cade dal cielo. Infatti complessivamente, cioè compresa la cassa malattia, il carico fiscale della Svizzera è del 30%, quasi la metà che da noi. E quanto al costo della vita, la legge che si voterà domenica prevede che ogni singolo cantone potrà adeguare il proprio salario minimo garantito, ovviamente alzandolo. In ogni caso, se passasse il referendum di domenica, la Svizzera avrebbe il salario minimo più alto del mondo, 22 franchi l'ora, circa 18 euro contro, per stare in Europa, gli 8 della Francia e gli 8,5 della Germania. In Svizzera, la nostra Elisabetta Fusconi, redazione che è svizzera, sta bene lei. Comunque, quanto stride questo racconto, sembrano due mondi diversi, sono separati da 1500 chilometri, il racconto che fa la stampa sulla Svizzera, il racconto che fa il manifesto con Angelo Mastandrea dalla provincia di Latina. Dopati per lavorare di più, è una storia incredibile. Anfetamine, oppio venduti ai Sikh, la comunità Sikh che lavorano nell'agro pontino per non far sentire loro fatica e dolore. È un dossier shock dell'associazione In Migrazione. Racconta il manifesto: l'ovetto che aiuta a sopportare la fatica costa appena 10 euro al mercato nero dello schiavismo pontino. Singh ha due possibilità: sciogliere il contenuto direttamente in bocca o mescolarlo al tè dei Sikh, il chai. Sceglie la seconda perché se lo mangio, dice, fa più male allo stomaco e alla gola. Così di prima mattina quella che gli indiani chiamano la sostanza qui cancella la fatica e i dolori del giorno precedente, ci si prepara a affrontare quello che sta per cominciare dopato come un cavallo, come sostiene Marco Omizzolo, giovane sociologo che con l'associazione Immigrazione ha realizzato un dossier che ha un jacuzzi nei confronti di padroncini e caporali del Basso Lazio. Qui vivono tanti Singh. Da queste parti lavorano fino a 12-15 ore al giorno, in genere nel raccogliere prodotti della terra, zucchine, cocomeri o col trattore a piantare altri ortaggi. Tutti i giorni, anche la domenica, fatica troppa, soldi pochi, dicono loro, e dopo un po' male alla schiena, alle mani, al collo, agli occhi per via della terra, al sudore, le sostanze chimiche. Ecco, una pagina intensa e intera di racconto davvero incredibile che proviene dalla provincia di Latina, lo trovate in prima pagina sul manifesto e poi continua a pagina 3. Mentre dall'estero mi hanno colpito due cose. La prima, queste immagini che trovate in Turchia, dove oltre 200 minatori sono morti, ci sono state le manifestazioni. Attenzione, intanto è stato accusato il premier Erdogan di aver dato un pugno nella ressa, un pugno alla figlia di una vittima di minatori. Ma soprattutto c'è quest'altra foto, invece inequivocabile, sul pugno di Erdogan ci sono solo testimonianze e non foto, ma sulla calcio che il consigliere di Erdogan, Yusuf Yerkel, io l'ho messo sul mio profilo Alino Milan, ha dato su Twitter a un manifestante. C'è proprio questo uomo in giacca e cravatta, consigliere di Erdogan, che prende a calci un manifestante. Oggi ha detto spiegherà il suo gesto. Cosa c'è da capire e da spiegare? Non si sa. Mi ha colpito anche dall'estero la vicenda che è su tutti i giornali di una mamma in Sudan. È il titolo di apertura di Avvenire. è stata condannata a morte perché è giudicata apostata per apostasia in Sudan. Si chiama Maryam perché deve seguire la religione del padre secondo la Sharia, mentre la madre è cristiana, ma siccome non si è convertita è stata condannata a morte. Il titolo di Avvenire di prima pagina è: Maryam deve vivere una cristiana al patibolo perché non abiura. Un giudice di Khartoum ha sentenziato che Maryam Yehya Ibrahim, madre cristiana di 27 anni incinta, ha abbandonato l'Islam e l'ha condannata all'impiccagione. Il primo caso del genere in Sudan, e la vicenda la trovate su tutti i giornali. Ma chiudo con la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi lo assegniamo al Corriere della Sera con Guido Limpio, che dedica una mezza pagina ai lavori sul veterano Whisky 7. Cos'è Whisky 7? È un piccolo biplano che ha partecipato allo sbarco in Normandia. In America lo stanno risistemando così per farlo ripartecipare alle celebrazioni dello sbarco in Normandia. Whisky 7, ma chi se ne frega? Ma dai, ma lasciatelo lì questo povero aereo, sarà anche stanco di volare. Dai, la carta costa. Ci ritroviamo dopo il GR, c'è Matteo Renzi alle 8:15.